Un saluto da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Beh, ultima trasmissione di questo 2022, un certo sorriso insomma mi parte, ma perdonatemi insomma, visto insomma i chiari di luna, come avrebbe detto insomma qualche anno fa insomma, qualche nonna, ecco, non di certo insomma genitori, visto insomma che non si usa da un po' di tempo, però ecco, come dire, forse è la cosa più adatta, ecco, tornare ai vecchi costumi, no? Visto insomma i periodi anche storici, quindi come dire, ci rivestiamo, ecco, con i panni tradizionali. Ovviamente sto scherzando, ci mancherebbe. 451 distopia, forse insomma anche sotto effetto insomma distopico, questa sera magari aspettatevi di tutto di più da sottoscritto, da Max Macchia, non è vero, però insomma potrei, ecco, come dire, andare in una forma insomma non più appunto possibile, utopica, ma al contrario, trovare il mondo al contrario, quindi da appunto un sogno utopico a un incubo invece distopico, ma d'altronde poi come dire, è sulla bocca un po' di tutti, ecco, veramente, ecco, adesso poi anche i nonni potrebbero insomma usarlo, e forse lo usano anche, perché no, la parola appunto distopia, tant'è che sta diventando insomma piuttosto normale, forse questo può come dire, una sorta di speranza, anche sì, un buttare forse così veramente il cuore oltre l'ostacolo, quello di veder finire insomma questo mondo, e quindi insomma anche alimentare in un certo qual modo, in maniera accelerata, perché no, questo disegno, ecco, potremmo dire distopico, se con disegno ovviamente si intende qualche cosa di strutturale e non insomma di metafisico, di così legato a qualche strano complotto. E quindi fine insomma di fondamentalmente insomma questo sistema sociale, e magari appunto inizio di un nuovo. Certo, dialettica vorrebbe che insomma alla fine di una cosa ci sia appunto l'inizio di un'altra, ma insomma rimaniamo ancora in termini distopici, che forse in una certa qual misura ci permette ancora forse di ragionare in maniera depressa, perché poi non è dietro l'angolo la depressione, oramai insomma anche questa fa parte insomma di una quotidianità, a questo punto veramente malata. E Soccer 96, non vengono da Bologna o da Casalecchio, e bensì insomma è una parte di The Comet is Coming, la parte più elettronica e se vogliamo insomma forse anche più distopica, un album molto interessante, questo Dopamine, che inizia, anzi un secondo pezzo che è un preludio all'era del transumanesimo, prelude to the age of transhumanism, per chi non conoscesse il transumanesimo, vado a fare un giro insomma su internet e si divertirà insomma, e qua veramente i sogni fantascientifici che appunto rivoltano non più appunto in mondo sognante, ma in un mondo che va a impattare l'incubo. Per iniziare appunto questa 451, ovviamente insomma un buon Natale distopico da queste parti, ricordando tra l'altro che Radio Città Fujiko ha fatto partire questa campagna abbonamenti, e quindi magari insomma come dire, ecco, in quel senso lì fare uscire, ecco, dalle radiofonie mainstream, che quelle sono veramente insomma distopiche, Nel senso anche più deleterio, insomma, del termine, visto che la visione in negativo può anche dare appunto una visione critica, e forse appartiene appunto più ad altre realtà. È per questo, insomma, che vi dico, insomma, e vi rammento per chi ancora non lo sapesse, insomma, è partita appunto una campagna abbonamenti qua a Radio Città Fujiko. Anche qua basta cliccare, insomma, il sito della radio e si apre, insomma, il vaso di Pandora, chissà. Intanto Prelude to Age of Transhumanism, se non si apre il vaso di Pandora in quel caso lì, insomma, scrivendo il sito appunto di Radio Città Fujiko, sicuramente si aprirà appunto con questo 451 che inizia. veramente bel disco quello di Social 96, Dopamine, dove appunto c'è una riflessione musicale su quello che è il suono anche distopico appunto dei nostri anni, decisamente distopici, quindi un suono realistico, ecco, potremmo dire, non quel realismo capitalista e così ben tanto analizzato e tanto messo, insomma, così scoperchiato, ecco, veramente, come fece il grande Mark Fisher, ma un realismo appunto dato da quello che è anche la forza, se vogliamo, della distopia, ovvero quel immaginarsi appunto e accelerare quella fine, quel finale, quel terminale, tanto da accendere appunto un possibile, ecco, in questo caso poi si riapre la faccenda, potrebbe riaprirsi, ecco, del nuovo inizio, ecco, forse Socher 96 ha questa capacità, proprio per anche un fatto di così creare appunto un momento che di riflessione critica, pur lasciandosi insomma andare a quelle che sono anche visioni, perché no, anche con la fascinazione, poi anche se poi per molti versi, insomma, quello che era la fascinazione di qualche anno fa, insomma, Blade Runner-iana, fascinazione distopica, è diventata insomma anche qualche cosa di piuttosto squallido, ecco, detta come va detta, che ha tanto veramente dello squallore quotidiano, servile anche, se vogliamo, appunto dei nostri giorni, rispetto appunto a una situazione sistemica che sembra insomma impossibile da cambiare, forse anche questo insomma il tratto ideologico che forse bisognerebbe superare, forse come superavano insomma una così categoria etnica elettronica sperimentale, vox populi, saltando a pie pari appunto varie categorie, industrial anche, perché no, e diventando insomma un gruppo sperimentale definito appunto etnica industrial, che è veramente insomma tanto di ossimorico, ma ci fa anche riflettere insomma su come possa appunto arrivare una forma dialettica, ecco, di questi tipi di sperimentazioni che facevano appunto vox populi, che tra l'altro andiamo a ripescare insomma lavori soprattutto su cassetta di qualche tempo fa, anni 80, nel periodo insomma fulgido di questo tipo di attitudine, anche se la loro sperimentazione è abbastanza insomma originale, forse Muslingate in quella appunto di Londra riusciva insomma a coniugare e anche a deletizzare, perché no, appunto un suono etnico e industriale, vox populi invece francesi, che appunto ci danno una un'immagine, un'idea musicale appunto fattiva di quello che appunto può essere un lavoro di sintetico, ecco, nel vero senso della parola. Opération de commando dans une entreprise en grève dans le Calvados. Pour récupérer 750,000 camemberts qui risquaient de devenir bien trop coulants et donc d'être perdus, le patron de la fromagerie Béni a réuni. Du Blooby Bulga. Yeah. This is Drexian Cruiser Control, Bubble 1, to Lardozian Cruiser 8-203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobonds. Thank you. Lardozian Cruiser 8-203X, please use extra caution as you pass the Aqua construction site on the side of the Aquabahn. I repeat, proceed with caution. Clay-203X. You are now clear for docking. Have a nice day here in Drexia. I'm Drexian Cruise Controller X205. If you have any problems, let me know. Bubble Control 1 out. Strepitosi, Drexia 2 qua, perché insomma si trattava di Bubble Metropolis, il suono appunto della città che diventa di gomma, nel senso forse anche legata insomma ai muri, muri di gomma senz'altro, ma una gomma, se vogliamo, è impermeabile veramente quasi a tutto, ecco, forse è quella la distopia, ecco, di Bubble Metropolis di Drexia, prima Vox Populi con appunto questo etnico filtrato ovviamente dentro una tecnologia è molto molto molto punk, molto cyberpunk a questo punto, se non fosse insomma per questo discorso che accennavo prima, ossimorico, insomma, con anche quel tanto di ritmicità etnico, cioè è tanto, sembra quasi una cosa di riferimento insomma alla giornata calcistica, perdonatemi, tanto di marocchino, di appunto di tambureggiante in questo senso. Ora non ricordo se Vox Populi avessero anche a che fare appunto con quella terra, magari ve lo dico anche dopo, sicuro insomma che lavoravano in terra francese, ovviamente tutto in una salsa decisamente distopica, perché sì, insomma, ovvio che l'eticità così vaga di Vox Populi diventa appunto incubo urbano e quindi insomma trasformazione anche mostruosa, se vogliamo, appunto di questo carattere così appunto etnico, e poi Drexia che con il loro battito appunto elettro da sempre, poi un suono che quando non è stato distopico, comunque è sempre stato fondato su una forma di allucinazione e di assurdità, anche in una certa qual misura l'utilizzo anche dell'assurdo sia grottesco, anche quello così più bizzarro, più vicino anche così alla una sorta di comicità che diventa appunto altro in mano appunto a strani sorrisi che potrebbero ricordare insomma quello di Aphex, di Aphex Twin, di Window Licker, quello di quel video straordinario di Cunningham, che in effetti poi in una certa qual misura scontrava, ma era uno scontro insomma poi in realtà ben oltre insomma la facciata appunto riottosa rispetto appunto all'hip hop, perlomeno lì era molto chiaro che si riferiva a certe forme di hip hop, e svelando insomma questo ovviamente insomma sia Aphex Twin che Autechre, buona parte insomma della Warp se non tutta, in realtà insomma tributava e da subito tributò un omaggio grandioso, tra l'altro anche un progetto parallelo a Drexia, tanto per citare appunto una faccenda afroamericana dentro la Warp, ma poi la citazione veramente era un po' di buona parte insomma delle distopie afroamericane, elettro appunto, un suono veramente lancinante che ancora insomma riesce a evocare e viene ancora utilizzato insomma in maniera anche così creativa. Di fatto poi l'elettro ha questa possibilità insomma, lavorando insomma su un carattere quasi assurdo, metronomico, strettamente questo appunto ripetizione e oltranza con riferimenti appunto non soltanto scuri come accennavo prima, ma quantomeno insomma legati a una così un'elettronica che scalpita, quindi tanto animale quanto poi in realtà insomma mentale, o perlomeno insomma mentale in termini insomma di visione, di anche di visivo, perché no, visto che buona parte del cyberpunk si fonderà anche appunto su questo altro insomma momento decisamente distopico che prenderà a piene mani insomma sia da certo indagine Astrele, magari da lì proprio è nato, da certa elettro che era diventata appunto tecno. Dofter Product, ne parliamo tra poco, adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Vi dico tutto dopo. Appena ascoltato Croatian Amor, questo progetto decisamente distopico da parte di un giovane, sì, potremmo dire, insomma, per molti versi ancora lo è, danese di Copenaghen, che appunto si fa chiamare Croatian Amor, che inizia con appunto nel 2013 con un'estetica e anche un suono che va molto a prendere da quelle che erano sperimentazioni, anche perché no, di Industrial, come Pacific 231, che ad esempio era il progetto side project di Vox Populi, o viceversa, ma adesso insomma ce ne sarà anche un altro gioco di specchi tra pochissimo. Questo inizio, ecco, legato a quel terrorismo artistico sonoro di appunto Croatian Amor, riprendendo appunto discorsi di qualche decennio prima. Muterà poi in qualcosa di profondamente, ecco, malato, nel senso che è proprio dei nostri giorni, cioè prendere anche dei suoni e anche delle situazioni decisamente, insomma, anche pop, perché no, lavora molto sul pop, e forse adesso citando, insomma, ma non voglio fare, insomma, troppi giochi di specchi, anche perché specchiarmi in questo specchio non mi piace tantissimo, ovvero quello di pop porno, insomma, però di fatto gioca, insomma, Croatian Amor anche appunto con quella caratteristica, insomma, di questo porno diffuso, no? E anche con quelle sonorità che provengono, insomma, da quel mondo prima cinematografico, poi evidentemente quasi potremmo anche far entrare, insomma, il discorso danese, e come appunto molta parte della pornografia nasca appunto in Danimarca, ma insomma senza ora perdermi, insomma, in exploitation vari che forse non ci riguardano, o forse sì, forse in un certo qual modo appunto arrivano appunto al nostro Croatian Amor in termini di immaginario, viene tutto disegnato come se fosse appunto un disegno finale, insomma, terminale, ma d'altronde anche qua, se pensiamo a certi immaginari apocalittici, molto spesso, insomma, citando un libro poi edito dalla Sheikh, Apocalypse Culture, dove appunto anzi la Sheikh editò Industrial, ma vabbè, adesso non voglio veramente perdermi in mille, insomma, riferimenti che tra l'altro riguardano anche sottoscritto, quindi come dire, perlomeno in termini sentimentali e di affezione sonora, ma di fatto, insomma, Croatian Amor prende tanto da quella cultura anche della Apocalypse Culture, appunto, che vedeva anche nel porno, come dire, in una sorta di espansione, di implementazione finale accelerata, anche qua una sorta di terminalità, ecco. E poi Croatian Amor diventa appunto questo suono, questo progetto legate a suoni che si fanno quasi neutri, potremmo parlare veramente di una sorta di new age malata, ecco, degli ultimi lavori. Io comunque poi prima vi dicevo vi abbandonerò con un altro progetto, insomma, legato anche lui per certi versi in un primo periodo a un terrorismo sonoro, come WWM e James Kirby. Lo andiamo a sentire da The Stranger, che è uno dei vari progetti appunto del geniale James Kirby, ripeto, Qua però si va su quella sorta di memoria, di perdita di memoria, o comunque di memoria quasi inceppata, potremmo dire, in termini di meccanismo, forse un po' anche come Dofter Product, che vi dicevo prima, tutto facendo soltanto un progetto che tra l'altro è molto molto particolare, ed è questo insomma il secondo gioco di specchi che vi accennavo prima, progetto di Heinrich Müller, ovvero l'altra parte di Drex Schia, prima che Stinson insomma morisse appunto insieme a lui, per uno dei progetti più incredibili, ma poi ha fatto veramente di tutto, tra l'altro arrivando a questi Dofter Product, dove veramente un progetto open source, un progetto aperto, con tanti collaboratori, girano dei file insomma su internet, tra l'altro, di questi insomma lavori, con appunto formazioni piuttosto insomma fluide, potremmo dire, usiamolo per comodità. Sara Davaci ad esempio potrebbe essere una delle nostre, che è dentro appunto dentro Dofter Product, oppure ricordando Cristina Vanzu, che ad esempio viene da Sara Davaci, viene da una certa forma di minimalismo estatico, Cristina Vanzu viene addirittura da una sorta di suono post rock, potremmo definirlo tale, mentre appunto per concludere questa distopia, e così vi saluto e vi faccio insomma gli auguri, i distopici auguri di Max Macchia, e The Stranger James Kirby, con appunto album omonimo del 97, dove appunto si lavora sui suoni della memoria inceppati, quella sempre grana che va anche un po' a trovare tanto il certo forme di rumorismo, ma non solo, come sentirete appunto in questi pezzi finali appunto di 451 distopie perfette, o insomma un buon anno in distopia completa. Ciao da Max Macchia, e all'anno prossimo. Battuta da 100 milioni di dollari.